24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Dopo le dimissioni di Stark a picco i listini europei, Milano la peggiore, chiude a meno 4,93%. L'addio di Stark, secondo gli analisti, penalizzerebbe il mercato perché viene letto come un segnale di tensioni all'interno della BCE. Misure di austerity, mentre l'Italia prepara le sue, ecco quali sono quelle già messe in atto dagli altri paesi europei. 11 settembre alle porte, a Berlino arrestati due sospetti attentatori. Bentrovati da Roberta Pellegatta ad una nuova edizione di 24 ore in Europa. Esplodono le tensioni sui debiti sovrani ai vertici della BCE. Si è dimesso nel pomeriggio il tedesco Jürgen Stark, capo economista e uomo chiave all'Eurotower, acceso critico del piano di acquisto di titoli di Stato dei paesi in difficoltà a partire da Italia e Spagna. Molto negativa la reazione dei mercati europei, ma iniziamo proprio dalla notizia delle dimissioni. Da Francoforte Alessandro Merli. Le dimissioni di Jürgen Stark sono arrivate a sorpresa, oltretutto a mercati aperti, però il dissenso che covava nella Banca Centrale Europea era evidente ormai da più di un mese, quando cioè la BCE aveva deciso di acquistare titoli italiani e spagnoli. Questo per i tedeschi è un rubicone che non doveva mai essere varcato, una decisione che nelle parole dello stesso Stark in un'intervista televisiva di qualche tempo fa finisce per mettere la BCE nella posizione di finanziare il debito degli stati, e questo è proibito dai trattati e per i tedeschi è assolutamente inaccettabile. Le dimissioni hanno sorpreso, ma ricordiamo che seguono quelle di Axel Weber, il presidente della Bundesbank, che nella primavera scorsa si era dimesso esattamente per la stessa ragione, e il presidente della Bundesbank doveva essere il successore di Trichet alla guida della BCE. Quindi c'è un profondo dissenso da parte tedesca sul modo in cui la BCE sta gestendo la crisi, e questo rischia di provocare una vera e propria cataclisma nella Unione Monetaria Europea. E come si diceva, dopo le dimissioni di Jürgen Stark, venerdì nero per le borse europee. Francoforte ha perso il 4,04%, Parigi il 3,6%, Londra è scesa del 2,35%, Madrid ha registrato un meno 4,44%, ancor peggio Milano, dove il FTSE MIB ha ceduto il 4,93% e l'All Share il 4,41%. Sentiamo. La seduta di ieri ha visto ancora una volta il crollo dei titoli finanziari a partire dalle due principali banche italiane. Unicredit meno 8,2%, che peraltro ha visto anche il vertice delle fondazioni azioniste all'esame piano industriale ed eventuale aumento di capitale, e Intesa San Paolo meno 8%, tornata sotto quota 1 euro. Ma a guardare l'intero settore bancario sono le performance di tutti gli istituti a essere un bollettino di guerra, con il Banco Popolare a meno 8,1%, Monte dei Paschi meno 6,1% e UBI meno 6%. Giù anche il settore auto, con Fiat sotto del 7%. Ceo Condina da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore. La Germania sta mettendo a punto un piano per sostenere le banche nazionali e le compagnie assicurative nel caso in cui la Grecia dovesse andare in default. Lo riferisce Bloomberg, che cita alcune fonti della coalizione del governo tedesco. Il cosiddetto piano B, hanno spiegato le fonti, prevede una serie di misure volte ad aiutare quegli istituti finanziari tedeschi che rischiano di subire perdite del 50% nel caso in cui ad Atene non sarà concessa la prossima tranche di aiuti. E rimaniamo in Germania, dove la polizia tedesca sta indagando a tutto campo dopo l'arresto di due uomini sospettati di aver acquistato materiale per un possibile attentato. Frequentavano un centro islamico di Berlino e non costituiscono un pericolo immediato, dicono le autorità, ma la notizia arriva pur sempre poco prima del 10° anniversario dell'11 settembre e mentre si avvicina la visita del Papa in Germania, in programma nella seconda metà di settembre. L'unico attentato di matrice islamica in territorio tedesco si è verificato lo scorso marzo nei pressi dell'aeroporto di Francoforte, quando un immigrato kosovaro aprì il fuoco contro un autobus su quale si trovavano militari statunitensi, due dei quali rimasero uccisi. Mercoledì è arrivata la sua confessione davanti ai giudici. In Italia si discute delle conseguenze della manovra finanziaria e delle misure di rigore adottate. In alcuni paesi europei il regime di austerity è in vigore da tempo. Allora vediamo quali le misure. La Grecia ha approvato una ristrutturazione del debito di 28,35 miliardi di euro in 5 anni. Tra le misure per ottenere aiuti da Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale c'è il contributo di solidarietà, richiesto alle famiglie ma scaglionato dall'1 al 5% del reddito. Aumentata anche l'IVA per ristoranti e bar dal 13 al 23%, mentre i tagli al personale del settore pubblico ammontano a 770 milioni di euro. L'Irlanda ha colpito welfare e pensioni dei dipendenti statali, creando imposte aggiuntive. L'obiettivo è ridurre il deficit di 6 miliardi entro fine anno. Più drastiche le misure in Portogallo. Lisbona ha congelato salari pubblici e pensioni fino al 2013 e ridotto i contributi sociali per le imprese. Caposcuola in materia di austerity però è la Spagna. Negli ultimi 2 anni il governo Zapatero è riuscito a ridurre il deficit di bilancio di quasi 5 punti percentuali, tagliando sì gli stipendi pubblici, le pensioni e i bonus bebè, ma diminuendo l'IVA sulle case dall'8 al 4% e introducendo agevolazioni per le assunzioni dei giovani. Barbara D'Amico, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso andiamo in Francia per un'altra puntata della querelle tra Parigi e la Coca-Cola. Parigi batte Coca-Cola 2-0. Lo scorso 24 agosto il governo francese, nell'ambito della manovra sui conti 2012, aveva deciso di creare una tassa analoga a quella sul vino a carico di produttori di bevande zuccherate, 3,6 centesimi al litro per un introito di 120 milioni. Ieri mattina il colosso americano aveva reagito in maniera scomposta, annunciando la sospensione di un investimento da 17 milioni in uno dei 5 stabilimenti che ha nel paese, con l'obiettivo di fare pressione sul Parlamento, dove la legge finanziaria sarà in discussione a fine mese. Ma la risposta della politica è stata durissima e Coca-Cola è stata costretta a un imbarazzante dietrofront. L'investimento resta, ha detto la direzione europea, c'è stato solo un errore di comunicazione da parte della filiale francese. Marco Mussanè, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. In Italia oltre il 50% dei bambini assume almeno un antibiotico durante l'anno, contro il 15% dei bambini inglesi e una media del 30% in vari paesi europei. Sono alcuni dei dati discussi ieri al convegno dell'Istituto Mario Negri di Milano, intitolato Uso razionale dei farmaci per i bambini e i loro genitori. Silvio Garattini, direttore dell'Istituto Mario Negri di Milano, che celebra quest'anno i suoi 50 anni di attività, al microfono di Adriana Fracchia. C'è, diciamo, forse una propaganda molto elevata per l'impiego degli antibiotici, c'è forse anche una forte pressione da parte delle famiglie che non tollerano di avere un bambino che abbia per qualche giorno la febbre, peraltro dovuta magari a virus che per definizione non possono rispondere agli antibiotici. Questa, diciamo, percentuale di farmaci inutili riguarda per lo più gli antibiotici o ci sono altri farmaci importanti? Riguarda per esempio anche l'impiego dei cortisonici, soprattutto dei cortisonici per inalazione. Ecco, ma tra i paesi più virtuosi da questo punto di vista c'è solo la Gran Bretagna o anche altre nazioni? In realtà non ci sono in assoluto nazioni virtuose, perché in tutti i paesi c'è la forte pressione dell'industria che vuole aumentare le sue vendite. Si può essere virtuosi in un campo e invece si può essere molto meno in altri settori. Certo, l'Italia dal punto di vista delle prescrizioni per i bambini deve assolutamente migliorare. In chiusura spazio al cinema con la mostra di Venezia. Ieri prima cerimonia ufficiale in Sala Grande. Alla vigilia della premiazione del concorso è stato assegnato il Leone d'Oro alla carriera. Sentiamo. Questo premio per me è il riconoscimento di una coerenza che ho sempre cercato di rispettare, della mia libertà. Aveva detto che non si sarebbe emozionato troppo Marco Bellocchio, ma si è un po' commosso sul palco della Sala Grande accanto a Bernardo Bertolucci. Sembra passata una vita da quel 1972 in cui portò al Lido Nel nome del padre di nascosto, dando origine all'antifestival parallelo a quello ufficiale. La copia fu in qualche modo, ma non tanto trafugata, con un trucchetto la ritirai da Cinecittà e la presentammo in gran segreto, e fu un evento molto importante. Ricordo che Cristaldi ci denunciò, poi la cosa si risolse. Intanto Bellocchio conferma, sta girando un film che ha a che vedere con la vicenda di Eluana Englaro. Ha un titolo che a me piace, Bella addormentata, ed è la storia non di Eluana Englaro, è una storia di immaginazione di vari personaggi in vari luoghi dell'Italia durante i 6 giorni in cui si concluse la vita di Eluana. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia. Ed è tutto per questo appuntamento con 24 Ore in Europa. Grazie a Mauro De Angeli in regia e a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.